si c'est une inverse. Del canto già si agotò. Non chiedo mai sul vertever. Sombra, se esconde un dolor, a pulsar o me sobrar.